Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Scaffali intelligenti, carrelli parlanti, siete pronti a fare la spesa nel futuro? Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, oggi a Essere Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Facciamo un salto nel supermercato del futuro grazie alle possibili applicazioni di quella che viene definita l'internet delle cose. Dalle motociclette al caffè, passando per abbigliamento e computer, fino alle manie urbane della bicicletta e della corsa, voi di che tribù siete? Nel focus sui trend di questa settimana scopriremo i segreti del marketing tribale. Ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità di questa settimana. Divani che volano, tavolini che suonano, lampade che ballano. È lo spettacolo Design Dance. Realizzato da Cosmit in occasione del Salone del Mobile, andrà in scena al Teatro dell'Arte della Triennale di Milano dal 17 al 22 aprile, in concomitanza con la rassegna. Protagonisti dello spettacolo, 456 oggetti di design, messi in movimento da attori, acrobati e ballerini. Al via la terza edizione di Porta la Sporta, settimana antispreco promossa da Comuni Virtuosi, WWF, Italia Nostra, Touring Club Italiano e Adiconsum. Obiettivo dell'iniziativa, alla quale aderiscono molte insegne della grande distribuzione, ridurre il consumo dei sacchetti usa e getta, incentivare l'acquisto di prodotti a basso impatto di imballaggio o sfusi e promuovere forme di consumo consapevole. Il 92% dei consumatori in tutto il mondo dichiara di fidarsi dei media earned, come il passaparola e le raccomandazioni da parte di amici e parenti, più di tutte le altre forme di pubblicità. Secondo uno studio Nielsen, i commenti dei consumatori online sono la seconda forma più affidabile di pubblicità. Per Coco Chanel era l'unico vero stilista del suo tempo. A 40 anni dalla morte, Parigi rende omaggio con una mostra allo spagnolo Cristóbal Balenciaga. L'evento è anche l'occasione per inaugurare il nuovo museo della moda e del design della città, costruito nei vecchi dock della Senna. La Coca-Cola in Sicilia costerà meno. Si risparmieranno dei 5 ai 10 centesimi per una bottiglia da un litro e mezzo. Visto il calo del potere d'acquisto delle famiglie, abbiamo deciso una politica di promozione sul prezzo, ha spiegato in chiave anticrisi la società imbottigliatrice per l'isola. A causa delle temperature più elevate, in Sicilia il consumo pro capite della bibita è superiore alla media nazionale. La borsa della spesa. A Roma, al Palazzo dei Congressi dell'Esposizione, si può ammirare in funzione il supermercato americano. Lo slogan è semplice, tutto alla portata di tutti. Si va dagli antipasti e si finisce alla frutta e al dolce. Finito il rifornimento, non resta che passare alla cassa. Sì, pagare si paga come da noi. Questo è l'unico inconveniente del supermercato americano. Come mai c'è tanta gente qui? Scusi un attimo, signore. Beh, penso per me molto sia dovuto all'assortimento. Un cliente entra da noi e ci trova tutto. Spaghetti a 150 lire, carne, frutta, verdura, tutto fino al caviale e la ragosta. E questo è molto importante perché si risparmia tempo e denaro. E poi c'è il fattore peso, qui da noi è sempre esattissimo. Questo oggi, tra 1000-2000 anni, anche i supermercati, chissà, saranno considerati curiosità di epoche primordiali. La spesa si ordinerà elettronicamente e i lauti pranzi dell'epoca si svolgeranno a base di pillole. Sarà un bene o un male, ai posteri appunto, l'ardua sentenza. Era il 1957, in Italia nascevano i primi supermercati e di colpo il futuro entrava nella spesa di tutti i giorni. Anche oggi gli scenari futuribili interessano i retail, i punti vendita, i supermercati del futuro dove gli scaffali saranno intelligenti. In base ai tempi di stazionamento dei carrelli forniranno indicazioni utili sull'esposizione. I carrelli saranno parlanti, ci indicheranno cioè il percorso migliore per ottimizzare la nostra spesa, che leggeranno magari dal nostro smartphone. Il supermercato, insomma, sarà pieno di oggetti intelligenti, dalla carta fedeltà al carrello, allo scaffale, appunto. E a governarli ci sarà l'internet delle cose, una definizione molto di moda in questo momento, con cui si identifica in pratica un mondo fisico in cui gli oggetti entrano in rete esprimendo una o più funzionalità, interagendo fra loro e con l'ambiente circostante. Che cos'è l'internet delle cose? Quali sono i settori in cui viene già applicata? Quali gli scenari futuri ipotizzabili per le nostre abitudini quotidiane legate al mondo dei consumi? Ne abbiamo parlato con Angela Tumino dell'Osservatorio Internet of Things della School of Management del Politecnico di Milano. L'idea di base è quella che attraverso internet potenzialmente ogni oggetto della nostra esperienza quotidiana acquisti una identità nel mondo digitale, quindi nel mondo di internet. L'espressione internet delle cose fa riferimento in primis a degli oggetti intelligenti, possono essere in grado di localizzarsi e quindi comunicare la loro posizione piuttosto che comunicare il loro stato, quindi se sono funzionanti o se necessitano di manutenzione, e poi sono in grado in alcuni casi di raccogliere grazie a dei sensori delle informazioni relative all'ambiente che li circonda, come i consumi energetici piuttosto che la temperatura, la rumorosità all'interno dei locali piuttosto che delle città. Le applicazioni sono veramente tantissime, vanno dal settore dell'ergoconsumo alle automobili, dalla gestione della mobilità alla gestione dell'energia. Il retail, in particolar modo la grande distribuzione, lo accennava prima, è uno dei settori di applicazione forse anche più immediati. Che cosa è possibile immaginare in questi supermercati del futuro grazie all'internet delle cose? Un ambito di applicazione è quello della tracciabilità di filiera, e quindi il fatto che tutta la merce, i prodotti che troviamo all'interno dei supermercati siano garantiti e possiamo essere in grado di conoscere tutta la loro storia dai campi fino ad arrivare alla nostra tavola. Grazie a che cosa? Delle etichette che si chiamano RFID, quindi identificazioni a radiofrequenza, che sono in grado di registrare le informazioni a ogni passaggio tra un attore e l'altro della filiera. Altro ambito di impiego invece è quello del monitoraggio delle condizioni in cui si trovano i prodotti, quindi tutto il tema di monitoraggio della temperatura, particolarmente importante quando parliamo di prodotti alimentari freschi o surgelati. Lungo il processo distributivo, ma anche nei punti vendita, pensiamo al monitoraggio dei banchi frigo. Queste sono applicazioni che sono già state avviate da alcuni retailer. Nel punto vendita del futuro ci saranno una serie di cosiddetti smart objects che potranno essere il carrello, lo scaffale, la nostra carta fedeltà, che ci consentiranno di fare in modo diverso tutta una serie di operazioni, dalla scelta dei prodotti al percorso interno ai supermercati fino al pagamento. Ecco, questo è uno scenario vicino. Per quanto riguarda il pagamento, le evoluzioni che ci possiamo attendere sono tutte quelle legate al mondo del pagamento anche tramite telefono cellulare, che oggetto intelligente per definizione che già la maggior parte di noi ha nelle proprie tasche. Questo è un fronte su cui si sta lavorando molto. Per quanto riguarda invece il carrello intelligente, negli anni passati si è sentito molto parlare della possibilità sostanzialmente di saltare la barriera delle casse con un carrello in cui tutti i prodotti fossero in grado di essere identificati in automatico. Ecco, questo è invece qualcosa di molto lontano. Per quanto riguarda i carrelli, quello che si sta valutando è la possibilità di monitorare i flussi, gli spostamenti anche in maniera ovviamente anonima delle persone all'interno del supermercato, proprio per andare a comprendere meglio come avviene il processo di acquisto e quindi andare a ridefinire anche il layout, come è strutturato il punto vendita, in modo da agevolare il processo d'acquisto da parte dei consumatori. Possiamo immaginarci un carrello che guiderà il consumatore nei percorsi ottimali del supermercato in base alle proprie abitudini di spesa, in base ai prodotti che vorrà acquistare? Ma guardando, diciamo, non nell'immediato futuro, ma un pochino più in là, è certamente qualcosa che è reso possibile da queste soluzioni. Essere e avere. Di Di nuovo in studio con Essere e Avere per i Black Eyed Peas. La tribù è una sola, messaggio di pace, di fratellanza universali. Quelle di cui parleremo invece tra poco sono le tribù di consumatori, le comunità che si sviluppano intorno a determinati prodotti, servizi, brand, manie o passioni. Accanto a me, come sempre, la nostra esperta Patrizia Martello di Memetic Club, insegna sociologia dei consumi, analisi delle tendenze alla nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. Consumi e tribù, prodotti e brand come moderni totem intorno ai quali i nuovi consumatori si aggregano e si scambiano, condividono linguaggi, codici e abitudini di consumo ma anche di vita. Dalla Ducati alla Apple, passando per i brand più innovativi, il marketing tribale ormai detta legge on e offline. Patrizia. Sì, con il termine tribù ci si riferisce alle tante nuove forme di aggregazione sociale, cioè gruppi di persone che condividono qualcosa, e questo qualcosa diventa un elemento collante, un legame comunitario. Esistono molte tribù nate intorno a un prodotto in maniera spontanea ed esistono tribù create da aziende e brand. Il prodotto in sé non identifica la tribù, ma serve appunto da generatore di questo legame comunitario tra i membri della tribù stessa. Le tribù sono composte infatti da soggetti eterogenei, anche molto diversi tra loro, che stanno però in relazione reciproca grazie proprio a questi legami forti che si creano, e questi legami si basano su elementi cosiddetti totemici molto precisi, rinforzati da rituali e supporti codificati e condivisi dai membri della tribù. Questi elementi sono delle cose, gli oggetti di culto, pensiamo appunto a un Harley Davidson, sono gli abiti, i costumi rituali, pensiamo a cosa rappresentano gli abiti per i cosplayer, quelle tribù di giovani che si vestono come i loro idoli del mondo del fumetto, gli spazi, i luoghi del culto. Luoghi fisici, stiamo parlando di tribù di consumatori, pensiamo ai negozi, pensiamo che cosa rappresenta Apple Store per la tribù di Apple. Le parole, che sono proprio delle formule magiche, che sono anche i claim pubblicitari, pensiamo a Just Do It di Nike, oppure le immagini, idoli e icone, di nuovo il baffo di Nike o qualsiasi altro simbolo. Il caso Ducati, che già anticipavi, è molto noto, è proprio un caso da manuale sulle tribù di consumo. Ducati deve il suo rilancio di successo dal 97 a oggi proprio perché ha puntato sulla tribù. Il totem è evidentemente la moto. In Ducati non c'è un marketing manager ma un tribe director. I clienti non sono clienti ma sono fan. I dipendenti sono chiamati proprio capi tribù. Sono famosi tra l'altro per coordinare le coreografie in stile stadio di calcio, a sostegno dei piloti Ducati durante le gare, piloti che sono evidentemente gli idoli della tribù. Una tribù reale che conta 200.000 ducatisti, che producono un passaparola spontaneo molto, molto forte, rinforzato da eventi ad hoc quali i Ducati Weekend e World Ducati Week. Parallelamente si è sviluppata la tribù virtuale, 12 milioni sono i visitatori all'anno del sito Ducati.com, il seguitissimo Desmo Blog fino al 2010 e oggi la pagina Facebook, Twitter e YouTube seguitissimi. Un altro caso di marketing tribale di successo è il caso di Nespresso. È il 1999, nasce la filiale italiana di Nespresso con obiettivo non certo semplice: riuscire a differenziarsi sul mercato del caffè in Italia. L'elemento su cui si è puntato è stata la dimensione comunitaria, di nuovo, ed esclusiva del caffè Nespresso, un piano di marketing che ha puntato sull'idea di club elitario, solo chi compra Nespresso ne fa parte, creando quindi questo club, modificando il concetto del caffè che viene elevato a un prodotto di lusso accessibile. Il totem o oggetto di culto sono evidentemente le capsule metallizzate, il luogo di culto sono le boutique Nespresso, icona, idolo dal 2005 George Clooney, non semplice testimonial quindi degli spot, ma scelto perché uno tra i più famosi membri del club Nespresso. I casi di Ducati, Harley Davidson insegnano, i motociclisti sono appunto una delle tribù tipo di consumatori, sono anche i protagonisti di una serie TV molto amata, Sons of Anarchy. Riding through this world all alone, gotta take your soul, you're on your own. Grazie del passaggio. Per me è un piacere. Nel club doveva regnare la verità. La nostra parola era il nostro onore. Ma fuori non c'era altro che menzogne. Le bugie erano una difesa, indispensabili. Per sopravvivere dovevi conoscere l'arte dello spergiuro. La bugia e la verità dovevano sembrare uguali. Ma una volta acquisita questa abilità, nessuno distingue più la verità, dentro o fuori dal club. Se ami il tuo uomo, impari ad amare anche il club. Patrizia, non solo prodotti e brand, le tribù passano anche da una serie di pratiche e abitudini comuni, soprattutto urbane. Sì, il contesto urbano, lo spazio fisico della città è un po' il luogo di elezione per le tribù, anche quelle che nascono e si alimentano in rete. Dalle performance artistiche agli sport urbani sono innumerevoli le tribù in circolazione. Si chiamano il Circo delle Pulci, promuovono un'estetica neofrica a cavallo tra il circense, il burlesque e il vintage. Sono una realtà molto interessante, itinerante, in costante espansione, creano degli eventi che sono un po' festa di piazza, un po' DJ set, ci sono i mercatini, c'è il tema dell'autoproduzione e della vendita, con l'aggiunta di karaoke anni 50 e 60 e spettacoli di magia e giocoleria. Quasi una volta al mese irrompono, di solito di domenica, a Milano, Roma, Torino e Firenze, almeno per ora queste sono le città in cui sono stati avvistati. E poi la tribù dei tangheri di strada. Siamo a Roma, si chiamano Tan Go, è un movimento che viene definito dai suoi stessi organizzatori uno strumento di socialità per vivere gli spazi sempre meno liberi, alle iniziative spontanee sempre più sottomessi alle logiche di mercato, quindi un modo per esprimere attraverso il ballo un diverso legame con gli spazi pubblici di cui questi tangheri di strada si riappropriano, quindi corpi che ballano agli incroci sulle strisce pedonali, sui marciapiedi, che diventano quindi degli scenari inconsueti non solo per chi balla ma anche per chi guarda questo meraviglioso ballo. Gli Urban Explorer sono la tribù di chi si infiltra e si avventura negli spazi inesplorati delle città, cantieri, sottosuolo, insomma luoghi più o meno vietati. Nascono sulla base di queste tribù semiclandestine servizi turistici pensati proprio per estendere queste esperienze di esplorazione urbana al grande pubblico e quindi servizi di tour guidati nelle città all'insegna di questo spirito. Manuali, guide e sempre più siti con indicazioni di visite legali istituzionalizzate, per esempio nei sotterranei di Parigi o appunto cantieri o grattacieli in costruzione o le catacombe di Roma, eccetera. Ancora la tribù delle fixie, le biciclette a scatto fisso, con cui anche si gioca a polo, sempre in città. È sbarcato in Italia il bike polo, con qualche anno di ritardo rispetto ad altri paesi nord europei, e ha raggiunto un buon momento di popolarità in questi ultimi 2 anni. E poi c'è la tribù del longboard, una specie di skateboard che viene già definito la nuova fixie, una tavola di legno nata per trasportare la gente e che diventa un mezzo alternativo di trasporto per i giovani, giovanissimi nell'area urbana, sulla strada, quindi non solo per evoluzioni su rampe e rail. E a Tokyo Adidas, per la tribù dei runner, ha ideato Runbase, un negozio, un punto di vendita che non si trova nelle canoniche vie dello shopping ma proprio nei pressi del Palazzo Imperiale, che in poco tempo è diventato il luogo prediletto dai runner urbani che su quel tracciato già correvano. Il negozio è aperto dalle 7 del mattino alle 10 di sera, orari a tipici per un negozio, ma guarda caso gli orari giusti per intercettare chi corre. Runbase offre scarpe, abbigliamento da corsa, tutta l'attrezzatura, non solo in vendita ma anche a noleggio, quindi si possono usare per l'allenamento, tornare nel negozio avendo a disposizione armadietti, box docce integrati nello spazio commerciale. Una volta a settimana il negozio promuove incontri con esperti del settore e eventi a tema. Diventa uno snodo, un punto di riferimento per chi corre in quella zona e il punto cruciale rimane sì la vendita, ma soprattutto l'idea di aumentare la passione e il divertimento dei runner con nuove idee di servizio, nuovi rituali, se pensiamo a un negozio che diventa anche un negozio spogliatoio, fare la doccia nel negozio, e in questo modo si cementa il legame con la marca rendendo più evidente anche chi è parte della tribù di quei runner Adidas e chi non lo è. Cosa c'è di nuovo a Arrivano dagli Stati Uniti le novità su consumi e tribù, ce le racconta come sempre la nostra Urban Watcher Alessia Zampano. Ciao Alessia. Ciao, buon pomeriggio. Branded for Life, che letteralmente sta per marchiati a vita, è il nome dell'iniziativa di Eco, scritto col CK, un marchio di abbigliamento urbano di ispirazione hip hop molto in voga tra i giovani, iniziativa che ha destato non poco scalpore. I creativi del reparto marketing hanno pensato bene di offrire uno sconto a vita del 20% a chi si fosse fatto tatuare a regola d'arte, quindi in modo permanente da un professionista, il logo del brand, scaricandolo dal sito ufficiale. Per riscuotere basta poi presentarsi alla cassa di qualsiasi negozio della catena e mostrare il tatuaggio in qualunque parte del corpo si trovi. I risultati non si sono fatti attendere, anzi dalle foto pubblicate in rete sul sito si vede che chi l'ha fatto non si è risparmiato. Nessuna furbata come marchi microscopici o nascosti, al contrario i marchi sono fieramente esibiti come il segno inconfondibile che identifica una tribù postmoderna a cui si giura fedeltà con un patto eterno. Può sembrare apparentemente estremo e ai limiti della stravaganza, ma è in realtà un esempio paradigmatico del valore altamente identitario che l'atto di consumo ha acquisito nella contemporaneità. Grazie Alessia, un caso questo che continua a far discutere. Patrizia, tatuaggio o meno? La domanda è: la tribù resta un circolo chiuso o porta anche nuovi clienti? Ma ribadisco che le tribù sono basate su un legame, che deve essere un legame forte. Dunque i nuovi membri, i nuovi adepti della tribù, se si tratta di una tribù di consumatori, evidentemente saranno anche clienti. E forse non solo clienti, ma anche appunto evangelisti della marca, proprio in nome di questo legame forte che necessariamente si crea se vogliamo parlare di comunità e di tribù. essereavere@radio24.it, scriveteci, aspettiamo le vostre idee, i vostri suggerimenti. Se vi siete persi qualcosa, cliccate su radio24.it, sezione podcast, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima dopo il GR delle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.